gli italiani sono da guardaline, c'è stata una gomitata, dice Buffon. Vediamo un po'. Ma no! E no! E no! E no! Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente Zidane. Vedi che lo prende, lo tiene. Niente, non è successo. Indecente, un'indecenza. Rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. In quel momento pensavo che avrei veramente spaccato il naso di questa persona, contro cui non avevo nulla e non capivo perché lui ce l'avesse con me. Nell'arco di 10 minuti mi dà 3 pestoni sempre sullo stesso piede. Mi giro e gli dico: fallo ancora una volta e ti spacco il naso. Nel 2018 Greta frequentava il 9° anno di una scuola di Stoccolma. Il 20 agosto decide di non andare a scuola fino alle elezioni legislative del 9 settembre 2018. La decisione nasce a fronte delle eccezionali ondate di calore e degli incendi boschivi senza precedenti che avevano colpito il suo paese durante l'estate. Voleva che il governo svedese riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico ed è rimasta seduta davanti al Parlamento del suo paese ogni giorno durante l'orario scolastico. Il suo slogan era "School Strike for Climate", sciopero dalla scuola per il clima. È passato più di un anno e Greta Thunberg è diventata una delle persone più note e influenti di questo pianeta, secondo il Times addirittura la più influente. Lo scorso settembre a New York ha parlato al Palazzo delle Nazioni Unite e ha fatto un intervento in cui si è lasciata andare a un momento di rabbia che l'ha portata addirittura alle lacrime. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Voi venite da noi giovani per avere speranza, ma come osate? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono una delle più fortunate. Persone stanno soffrendo, stanno morendo. Interi ecosistemi stanno crollando. Siamo all'inizio di un'estinzione di massa e l'unica cosa di cui riuscite a parlare sono i soldi e l'illusione di una eterna crescita economica. Come osate? La puntata di oggi è dedicata all'Ira, racconta di una partita di calcio e di un giovane italiano andato in Siria per combattere l'ISIS. Benvenuti a Linee d'Ombra. I used to fall asleep to you talking to me. I don't listen to anything now. Nothing to do with us. I'm just so tired of thinking about everything. I'm not afraid of being alone. I just don't know what to do with my time. Between you and me, I thought it would all last a little while longer, but I'm learning to lie here in the quiet light while I watch the sky go from black to gray, learning how not to die inside a little every time I think about you and wonder if you are awake. You don't know anything I think about you. Way more than anything else. I'm not that spiritual. I still go out all the time to department store. Everything I need, but none of this is getting me anywhere good. Between you and me, I still fall apart at the thought of your voice. But I'm learning to lie here in the quiet light while I watch the sky go from black to gray, learning how not to die inside a little every time I think. great. Learning how not to die inside a little every time I think about you and wonder if you are awake. And I'm learning to live without the heartache it gives me. Nothing I wouldn't do for another few minutes. Learning how not to cry every time there's another sad, unbearable moment. But sometimes there's nothing I can do. E Linee d'Ombra è Radio 24, questo è il programma che vi racconta tutti i giorni delle storie, non storie qualunque, le storie legate ai vizi capitali. Le storie le raccogliamo da voi, principalmente voi siete la fonte del nostro archivio. Linee d'Ombra, @radio24.it è l'indirizzo email a cui mandare una vostra storia che racconta uno dei sette vizi capitali. Per raccontare intendo dire che sia un episodio legato alla vostra vita che si incanala in uno di quei vizi. Ecco, la puntata di oggi, la storia di Ira che ci ha mandato Fabrizio è abbastanza esemplare da questo punto di vista. C'è un episodio ben preciso, accaduto un giorno ben preciso, e quel fatto in qualche modo ha cambiato il protagonista, cioè appunto ha cambiato Fabrizio. Quando mi capita di raccontare quello che faccio, quando mi capita di avere a che fare con qualche ascoltatore anche che mi dice io una storia ce l'ho ma non saprei come raccontarla, oppure meglio ancora o peggio ancora io una storia non ce l'ho e mi piacerebbe ma non riesco a trovarla. Io credo che storia chiama storia, per cui nel momento in cui ad esempio oggi vi racconteremo una storia legata ad un vizio come l'ira, ma ad un posto specifico che è un campo di calcio e quindi lo sport, probabilmente di là dalle casse in questo momento c'è qualcuno a cui si accenderà una lucina in testa e dirà ah, ma io c'era una storia legata a questo vizio, oppure c'era una storia legata a quel mondo lì, al mondo dello sport e al mondo del calcio. Le storie funzionano così, un po' come quando uno arriva a una cena ed è appena atterrato, ha fatto un atterraggio magari brutto con l'aereo e dice ragazzi non sapete che atterraggio orribile che ho fatto, lo racconta e a tutti o a gran parte dei presenti alla tavola viene da raccontare un episodio legato a un volo aereo in cui è successo qualcosa di strano. Le storie funzionano così, funzionano come un circolo virtuoso, una storia chiama un'altra storia, per cui se proprio dovessi dirvi come mi capita quando mi chiedete come faccio a raccontare una storia, i meccanismi non sono così complicati, basta trovare il tono giusto per farlo, cioè scrivercela non come se fosse un report aziendale ma come se fosse una storia, con un tono diciamo amichevole, come se mandaste una lettera a un amico a cui volete raccontare qualcosa. Se volete essere un po' precisi date gli estremi, spazio temporali, chi eravate, in che periodo della vostra vita, cosa stavate facendo e poi andate al punto, andate al cuore della storia che è l'azione, cioè il fatto che succede. Ma c'è un aspetto che per me però è inderogabile, quando raccontiamo una storia nostra, ovviamente una storia di vita nostra, c'è un elemento dal quale non si può prescindere se vogliamo che quella storia abbia un senso per noi e per gli altri, ed è il fatto di non avere paura di essere vulnerabile, cioè il fatto di non avere paura di raccontare un proprio piccolo difetto o qualche mancanza o manchevolezza nostra, che tra l'altro ha molto a che fare coi vizi, perché se uno vuole raccontare un episodio legato a un vizio capitale un po' sta confessando qualcosa non di cui si vergogna ma che magari lo imbarazza in parte. Quindi per me il concetto di vulnerabilità è fondamentale nel racconto delle proprie storie e della propria vita. Non che si debba per forza essere vulnerabili, ma non si deve avere paura di esserlo quando lo si condivide e quando lo si racconta. E tra l'altro credo ci sia anche un grande fraintendimento rispetto al termine vulnerabilità. Molti considerano vulnerabilità una forma di debolezza, e invece credo che la vulnerabilità, al contrario, abbia esattamente a che fare con il coraggio. Ma cominciamo da qui, cominciamo con il coraggio o con lo scatto d'ira, dipende dai punti di vista, che ha Fabrizio, che ci racconta questa storia qua. Il calcio è sempre stato nel mio DNA, e lo è ancora, ed è tutto merito di mio padre, che il giorno della mia nascita, nel 1972, avvenuta ovviamente di domenica, nel momento in cui mi ha avuto in braccio, mi ha portato vicino alla finestra, indicandomi un campo di calcio che si trovava di fronte all'ospedale Regina Margherita di Torino. Inconsciamente, quel rettangolo verde, che in realtà era marrone, mi è entrato nel sangue, e da quel momento ho cominciato a prendere a calci tutto ciò che rotolava, e non solo. Sinceramente non ho mai avuto una grande voglia di allenarmi, ma la tecnica e il fatto di essere mancino mi ha sempre permesso di giocare ed essere ricercato dalle diverse squadre della mia zona di nascita, Mirafiori Sud, Torino. Purtroppo o per fortuna a quei tempi i mancini erano una merce rara e la cosa aveva risvolti sia positivi sia negativi. Infatti chi era mancino a quei tempi poteva solo giocare o terzino sinistro o ala sinistra o mezzala sinistra, punto e basta. Era un giocatore che aveva del talento, gli piaceva giocare dalla tre quarti in avanti, ma avevo purtroppo il difetto di essere mancino, che per la fine degli anni 70-80 era un destino di laterale difensivo alla sinistra, cosa che non era per me, perché non avevo voglia di allenarmi. Mi tolsi un'enorme soddisfazione vincendo il campionato Under 18, giocando praticamente da terzino, e mi disse che siccome la mia voglia di allenarmi era sempre la stessa, cioè poca, decisi di appendere gli scarpini al chiodo, avendo vinto qualcosa. Passai immediatamente al calcio a 5, sport che pratico tuttora. Un mio caro amico mi chiese se volevo fare un campionato amatoriale, in quanto come sponsor principale di quella squadra lui era contento di coinvolgere degli amici. Superai la mia riluttanza quando seppi che ci si allenava poco e dopo ogni allenamento era prevista una goliardica cena. Giocavo da punta, anche perché ero uno dei più giovani e mi stavo divertendo, confrontandomi anche con persone molto più grandi di me, da cui imparavo trucchi e astuzie. E poi arrivò quel giorno, il 6 dicembre del 1993. Partita da giocare in casa alle 9 del mattino del 6 di dicembre a Torino. Giornata tipicamente invernale. Sul campo, ovviamente in terra, è presente una coltre di nebbia che per qualche minuto mi fa sperare che forse, a breve, sarei tornato a letto a dormire. Anche perché non è che facessi la tipica vita da atleta, la notte avevo dormito più o meno 6 ore. Dico, purtroppo, la nebbia si alzò e l'arbitro decise che si poteva, anzi si doveva giocare. Il terreno era praticamente una lastra di ghiaccio, dove i tacchetti in ferro faticavano ad affondare. Palla al centro e si comincia, con pochi convenevoli da terzo tempo, mica come oggi. Io mi posiziono in avanti e incrociando lo sguardo del centrale di difesa, un signore di almeno 40 anni, lo saluto come facevo sempre, tendendogli la mano. Mano che lui rifiuta, accompagnandolo con la parola «preparati» e un ghigno che mi fa capire che sarebbe stata una lunga domenica. Cerco di stargli non troppo vicino, ma ad un certo punto, con la palla lontana, mi si avvicina da dietro e mi pesta il piede sinistro, facendomi provare un dolore assurdo. Mi giro e gli chiedo: ma cosa cazzo fai? Risposta: non hai visto ancora niente. Io cerco di attirare l'attenzione di qualcuno, ma non siamo in Serie A. I guardaline non ci sono, mentre l'arbitro ha una forma non proprio smagliante. Nell'arco di 10 minuti mi dà 3 pestoni sempre sullo stesso piede. Io non ne posso più, mi giro e gli dico: fallo ancora una volta e ti spacco il naso. In tutta risposta mi guarda con un ghigno arrogante. Non passa un minuto e la scena si ripresenta: pestone assurdo con palla in fallo laterale. Mi giro, lo guardo e mentre sorride gli tiro una testata fracassandogli il setto nasale. Mi rigiro e mi avvio verso lo spogliatoio, mentre alcuni compagni, miei e suoi, si precipitano verso di me con sentimenti sicuramente opposti. Subito dopo aver fatto quel gesto ho pensato che avevo fatto un'enorme stupidaggine, tant'è che mi sono girato per andare nello spogliatoio, mi sono tolto la maglia e speravo sinceramente di non provocare una rissa globale. L'arbitro mi guarda ed estrae il cartellino rosso. Gli do la mano, chiedendo se per cortesia poteva guardare una cosa senza volere il perdono di nessuno. Lui acconsente e mentre tutti quelli che sono in campo non capiscono e il loro centrale viene soccorso con il ghiaccio e i tamponi, perché il naso gliel'ho rotto davvero, mi tolgo la scarpa sinistra e già dal calzettone si vede il sangue. Sfilo il calzettone e la condizione del mio piede sinistro è raccapricciante. L'unghia è distrutta, sono ben visibili i segni dei tacchetti in ferro che si piantavano nella carne. Anche i compagni del centrale difensivo inorridiscono. L'arbitro mi guarda, va dal centrale che è ancora a terra e lo espelle al pari mio. Non so se la cosa fosse regolamentare, ma andò così. Io nello spogliatoio ero veramente dispiaciuto di aver ceduto all'ira, perché mai mi era capitato prima e non mi è mai più capitato. Ma una parte di me pensava che quel centrale lì non poteva andare in giro dicendo che giocava a calcio. Quel calcio giocato anche da Guglielmo Gabetto, uno degli invincibili. When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall, I'll grab my light and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you, I'll go with you. Surrounded and up against the wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend, I'll grab my bat and go with you. Di oggi di Linea d'Ombra è dedicata all'ira e lo dice chiaramente Fabrizio nella sua storia. Dice: mi dispiacque lasciarmi andare con lo scatto d'ira, ma evidentemente fu più forte di me. E forse l'ira ha questa caratteristica, quella di essere irrefrenabile e poi di portarci al pentimento, o almeno si spera. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te. Come stai? Quanto tempo è passato? Ormai più di 20 anni, direi. Dal 93, sono 20... 36 anni. Certo. No, 26 anni. Sei ancora un ragazzino, Fabrizio, non buttarti giù, perché lo dici... No, sono un ragazzino, mi sento un ragazzino. Sei ancora in forma, giochi ancora, giusto, a calcio? Sì, gioco a calcetto con gli amici, E allora, scusami, Fabrizio... La forma assomiglia a quella dell'arbitro di quel tempo lì, però... Non importa, l'importante però, è avere i piedi buoni. Certo, sì. Voi dite sempre, quelli con i piedi buoni dicono sempre così: se hai i piedi buoni puoi giocare da fermo. Non è vero, non è così vero. Però in realtà purtroppo quelli con i piedi buoni si vedono sempre subito, e quindi in realtà avete la vostra parte di ragione. Fabrizio, però alla luce di questi quasi più di 30 anni di calcio giocato, più di 30 anni, giusto? Sì. Quante volte ti è capitato di incontrare un tizio così? Mai più ricapitato di incontrare una persona così, neanche nell'ambito del calcetto, perché poi io mi sono dedicato al calcetto, e devo dire che io non sono un tipo tranquillo di base. Un po' si è capito, giusto? Sì, no, non sono neanche un delinquente, però arrivo spesso a un limite che però non ho mai superato, tranne che in quell'occasione, perché era stato... veramente tutto gratuito, e lì c'era anche la gioventù, c'era la rabbia di non capire che cosa voleva questo da me, anche perché, ti ripeto, era un campionato che non so, cioè, amatoriale, con gli arbitri che non penso neanche fossero della federazione, era un torneo tra adulti che volevano continuare a giocare a pallone, ecco, quindi quel comportamento lì non mi ha portato fuori, lo immaginiamo, è chiarissimo. Ma tra l'altro nella parte finale tu dici che quando anche i suoi compagni vedono come è ridotto il suo piede si stupiscono. Hai avuto modo poi, che so, di parlare con loro, di capire se un giorno come un altro a quello gli era scattata quella roba lì e se l'era presa con te, o era una cosa che faceva abitualmente? Cioè, sappiamo qualcosa di più di lui? Guarda, io finita la partita ero nella doccia, ero ancora nello spogliatoio, non nella doccia, e sono rientrati tutti. La partita è proseguita nel modo più tranquillo possibile. Io, anche per un po' di vergogna, non ho avuto il coraggio di andare a cercarla questa persona. Okay. E dopo quella partita lì io non partecipai più a quel campionato, a prescindere dalla squalifica, che non so neanche quante giornate mi dettero, ma ho ritenuto opportuno interrompere quell'avventura, perché non volevo che ricapitasse una cosa del genere. Io ancora giocavo a calcetto e facevo dei campionati di calcetto, tornei di calcetto, e quel piede lì, poi io sono mancino come hai letto, sì. E l'unghia era completamente fracassata, cioè non ne valeva la pena. Ok, chiarissimo. Senti, invece, visto che non tutti magari sanno chi è, tu chiudi dicendo mi aveva fatto arrabbiare il fatto quello dicesse di essere un calciatore allo stesso modo in cui era stato un calciatore Guglielmo Gabetto. Ci racconti chi era? Tu chiaramente sei tifoso del Torino, sei tifoso del Torino. No, io sono un tifoso della Juve. Ah. Solamente chi non è intelligente non può rendere onore a quella squadra lì. Questa è una grande osservazione. E Gabetto era uno degli invincibili che fece quella fine orribile, che diede fine a un lustro del calcio italiano, che da lì ci ha messo un bel po' a riprendersi. Ecco, quindi io da juventino e i miei amici sanno che sto dicendo le cose in modo serio. Non potevo sopportare l'idea che quello lì dicesse di giocare a calcio. Ecco, quello era una bestia prestata a un campionato amatoriale, Fabrizio, non un calciatore. Prima di salutarti e ringraziarti, cosa fai adesso nella vita? Io faccio il perito assicurativo, quindi per diletto alleno una squadra di amici a calcetto del CSI. Fino a 2 anni fa ho allenato i bambini della Jesina Calcio, che sono i bambini della società, della città dove adesso vivo, perché vivo a Jesi, in provincia di Ancona. Fabrizio, grazie ancora davvero per la storia e la sua telefonata. È stato molto emozionante, grazie. In bocca al lupo per tutto, a presto. Anche a te, ciao. Sentiamo le borse in diretta e poi torniamo con Linee d'Ombra. Io mi ricordo che in terza media non avevo assolutamente idea di quello che avrei scelto, e tutto è andato bene. Il mio consiglio è quello di osare, di provare a volare il più alto possibile, perché è questo il momento in cui bisogna farlo. Io ero in una classe, tutti dicevano vado al classico, vado allo scientifico, e c'era un ragazzo che non si esprimeva. Gli ho detto ma tu cosa vuoi fare? E lui sottovoce mi ha detto io vado all'istituto tecnico. Il filosofo della scienza Telmo Pievani, lo scrittore ed insegnante Enrico Galiano, l'orientatore Francesco Dell'Oro, La fanno facile loro, ora che sono grandi. Ma scegliere le scuole superiori non è per niente semplice. E allora ecco una panoramica degli indirizzi di studio, le sperimentazioni, i consigli di tanti esperti alla vigilia delle iscrizioni. Sono Maria Piera Ceci e vi aspetto il 6 gennaio alle 10 nello speciale di Verso il futuro e oltre. Naturalmente qui su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Gli abbiamo dato tanto, troppo, tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Refocert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreform.it. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. E la prossima storia che vi raccontiamo qui a Linee d'Ombra, qui a Radio 24, è la storia incredibile di un giovane uomo che parte dall'Italia e arriva fino in Siria. Il suo obiettivo è molto chiaro ed è fronteggiare l'ira che i militanti dell'ISIS scatenano quotidianamente contro il popolo siriano, con l'obiettivo ultimo di sconfiggere la nostra civiltà. Lui si chiama Karim Franceschi, è un ragazzo italiano di Senigallia, ha scritto un libro molto interessante, si chiama Il Combattente, pubblicato da Rizzoli qui in Italia. E in questo pezzo della sua narrazione, della sua storia e del suo racconto ci racconta un momento molto drammatico, un momento in cui insieme ad un suo compagno, nascosti sotto un telo, rischiano di essere scoperti e giustiziati da un gruppo di miliziani di Daesh. Stiamo con lui sul confine della linea d'ombra. Hem Saiden, mi dice il mio compagno. Nella sua lingua significa siamo martiri. Se quelli si accorgono della nostra presenza, noi non abbiamo scampo. Non è nemmeno il numero dei miliziani, che sono 20 o giù di lì, a rendere assurda qualsiasi ipotesi di scontro a fuoco. È il carro armato a chiudere la questione. Per non parlare poi di quel mitragliatore montato sull'Hammer, basterebbe da solo a farci fuori tutti. Mentre cerco di spiegare a gesti che cosa c'è dall'altra parte del dosso, vengo colto da un attacco di ridarella isterica. Il mio compagno, Hawer, mi fissa con un'espressione tra il terrorizzato e il rassegnato, fatica anche a deglutire la saliva. La fuga non è nemmeno immaginabile, perché per scappare dovremmo correre per un bel pezzo in campo aperto, davanti a loro. A quel punto basterebbe una sventagliata di mitragliatrice per ammazzarci tutti quanti. Dunque facciamo l'unica cosa che resta da fare. È il tentativo della disperazione. Raccogliamo quanta più neve possibile, la spargiamo sopra il telo e dentro la buca per mimetizzarla al meglio. Usiamo anche qualche sasso, così da confonderla ancora di più con il resto del paesaggio. Poi ci infiliamo dentro, senza lasciare nessuno spiraglio. Siamo completamente al buio, sotterrati tra mucchi umidi di neve e di pietre. Sono steso supino accanto al mio Kalashnikov e al mio compagno Hawer. Entrambi sappiamo bene cosa dobbiamo fare, non c'è bisogno di dircelo. Con la mano sinistra sfilo dal gilet tattico una granata, me la appoggio sul petto stringendola con forza. Faccio passare il dito medio della mano destra nell'anello metallico che ferma l'innesco della bomba e lì mi blocco. L'ultima immagine che vedrà, che alzerà questo telo, sarà Karim Franceschi che gli mostra il dito medio un attimo prima di esplodere. Si stanno avvicinando, lo sento. Il rumore dei cingoli del carro armato si è fatto più forte e mi pare persino di avvertire la vibrazione del terreno. In fondo lo sapevo che sarebbe andata a finire così, questa impresa disperata. Lo sapevo. cuore mi martella dentro al petto. Delle vampate mi partono dalle spalle e dal collo in tensione, ma non riescono a scaldarmi veramente. La sensazione è più quella di essere intrappolato in una cella frigorifera. Ho paura. Ho paura come non ho mai avuto in vita mia. Ho sempre immaginato la mia morte attraverso gli occhi di quelli che amo di più, e anche adesso, con la mente, torno nella casa di Senigallia. Immagino il volto affranto di mia madre, che piange disperata. Il suo dolore è come una lama che si pianta lentamente nel mio cuore. Il pensiero corre a Leila mentre sento la fine avvicinarsi. Alle sue labbra piene, ai suoi occhi di giada, alla promessa di ritornare in Italia che non manterrò. Passano i secondi e io non riesco a staccarmi dal ricordo della donna che amo. Non voglio morire prima di averla rivista un'altra volta. Eccoli, li sento, sono vicinissimi. Sono a 30 o 40 metri da noi, non di più. Il rumore del motore diesel del tank sovrasta le voci dei miliziani. Trattengo il respiro e percepisco che anche Auer sta facendo la stessa cosa qui accanto a me. Il collo e la mascella sono contratti da far male. Fuori intanto la colonna si è fermata. Il carro armato non avanza più. È finita, ne sono sicuro. Qualcuno ci ha scoperti e, per come si sono messe le cose, mi pare anche l'unico destino possibile. È inevitabile, è ormai solo una questione di secondi. Tirerò l'anello, sì. Non mi farò prendere prigioniero da questi invasati per finire tagliato a pezzi e trasformato in un mucchio di arti con la mia testa in cima, come è capitato agli sfortunati compagni che ho visto a Kobane. Se è scritto che stanotte devo morire, morirò da partigiano, come avrebbe fatto mio padre prima. Con orgoglio, portandomi qualcuno dei miei nemici con me. Con il pollice della mano sinistra sfioro la tasca della giacca a tastare il mio talismano. Stringo la bomba ancora più forte e faccio una leggera pressione sull'anello. La spoletta si sposta di qualche millimetro. Strizzo gli occhi in preda all'angoscia. Ho perso cognizione del tempo. Papà, mamma, datemi il coraggio. Vi voglio bene. Due ruggiti consecutivi del motore del tank, seguiti dallo stridio di ingranaggi meccanici che riprendono a girare, mi fanno spalancare gli occhi. Il cingolato si muove. Resto immobile, concentrando tutta la mia capacità di percezione sulle orecchie. Non ci penso proprio a dare una sbirciatina fuori dal telo. Non ho nessuna intenzione di provocare la fortuna. Sì, se ne stanno andando. Thank you. La storia che vi abbiamo raccontato è tratta da un libro che ha scritto lo stesso Karim Franceschi, cioè il protagonista di questa storia. Si intitola Il Combattente, repubblicato in Italia da Rizzoli. Ora sentiamo Le Strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. La prossima storia che vi raccontiamo è presa da uno spettacolo dal vivo che Mauro Pescio, che scrive questo programma insieme a tutti noi, fa a Roma una volta al mese, che si chiama Mio Cugino, in cui invita delle persone a raccontare delle storie. Alcune sono vere, una è falsa e il pubblico deve capire qual è. La prossima che vi raccontiamo quindi arriva da lì e sentirete anche la viva voce della persona che l'ha raccontata, ed è ovviamente parte delle storie vere. Io sono un reduce di Woodstock, racconta. Sono stato cresciuto dai gesuiti all'elementare, alle medie e al liceo. Poi però sono anche andato a Woodstock. E Woodstock mi ha salvato la vita. Ecco, si presenta così Alfredo Saitto, manager, discografico e uomo di musica, e soprattutto grande curioso. In questa puntata, la terza storia di oggi è la storia di come nacque la sua lunghissima amicizia con un mito del rock and roll. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Questa storia risale a molto tempo fa, quando avevo poco più di 20 anni e venni assunto dalla RCA, la casa discografica. Fino ad allora avevano trattato solo musica italiana, Gianni Morandi, Sergio Endrigo, però la loro intenzione era quella di aprire agli stranieri, ma non sapevano come prenderli. Erano drogati, facevano rock and roll, insomma era gentaglia, sembrava gentaglia. Io, grazie ai gesuiti, sapevo bene l'inglese e grazie a Woodstock sapevo qualcosa di rock and roll. Per questo venni assunto come manager del catalogo internazionale della RCA. Una delle prime esperienze in cui sono stato coinvolto era l'arrivo di Lou Reed a fare promozione in Italia. Io ero pazzo di lui ed ero pure un po' emozionato, visto che dovevo stare dalla sua parte ed accoglierlo. Chiamo questo mio amico del TG1 e gli dico: guarda, io c'ho Lou Reed, gli vuoi fare un'intervista? Parlo col direttore, mi telefona e dice: noi drogati al TG1 non ci ricordiamo. Io dico: prova a insistere, cioè, se ci... lui ritorna e dice: ma ha smesso di drogarsi? E quindi lo prendono e insomma organizziamo questa intervista. La sera prima lo incontro per la prima volta. Mi bofonchia qualcosa che non capisco. Ci diamo appuntamento per la mattina successiva alle 11 davanti ai cancelli della RCA. Indomani alle 11 puntuale vedo arrivare la limousine, quella che gli avevo noleggiato. Scendono Lou Reed e il suo manager. Il manager è simpaticissimo, Lou Reed un po' meno. Entriamo subito in studio per registrare l'intervista per il TG1. Lui va a sedersi al suo posto con in mano una lattina di Coca-Cola. Uno del telegiornale mi dice che la lattina dovrebbe buttarla perché altrimenti facciamo pubblicità e non si può fare pubblicità all'interno del telegiornale. Io ho detto: io dici te. Cioè, già sta qua ed dobbiamo ringraziare. Allora, lasciamo con la lattina. All'epoca i giornalisti del TG1 non parlavano una parola d'inglese, quindi io mi occupo di tradurre le domande. Ma le domande che gli traduco non gli piacciono. Lou Reed continua a giochicchiare con la lattina fra le mani e non risponde. Il giornalista mi chiede perché non risponde. È perché non gli è piaciuta la domanda, gli dico, fagliene un'altra. Fa un'altra domanda un po' più tecnica. Lou sembra finalmente interessarsi, ma poi il giornalista cita David Bowie e Lou Reed si era da poco menato con David Bowie, quindi risponde soltanto: io non capisco perché a lui lo applaudono e a me tirano le siringhe. Non aspetta nemmeno la quarta domanda, lancia uno schizzo di Coca-Cola sulla telecamera, si alza e se ne va. Il giornalista, rimasto solo, mi chiede spiegazioni e io gli dico: senti, volevi un'intervista a Lou Reed, questa è la vera intervista a Lou Reed, se hai il coraggio mandala in onda. Lui però mi disse che non aveva il coraggio e quindi abbiamo fatto finta di niente. Esco e penso che vorrei prendere Lou Reed a male parole, però avevo un ruolo, ero un manager, non potevo farlo. Cerco dunque di controllare la mia rabbia, mi avvicino e provo a mediare. Quando sono vicino a lui, lui mi chiede se ho delle cassette vergini. Io vado negli uffici e torno con una ventina di cassette, pensando di farlo contento. Lui invece mi guarda, le prende e le butta via. Ora, io ero un po' abituato al rock and roll, però dopo che mi butta le cassette, mi arrabbio sul serio. Eravamo accanto alla limousine, do un cazzotto sul tetto della macchina e comincio a urlargli contro frasi irripetibili, il cui contenuto più o meno era questo qua: caro Lud, tu sei uno dei miei eroi, però ci hai rotto il cazzo, noi stiamo lavorando per te, devi avere rispetto, perché altrimenti l'Italia può continuare a vivere anche senza Lou Reed. Lui prima mi lascia parlare, guardandomi negli occhi. Poi si avvicina. Io penso che voglia menarmi. Decido di farmi trovare pronto. Penso, se solo fa un gesto, gli do una crocca che lo stendo. Si avvicina, io sono pronto. Si ferma. E invece di menarmi dice, sei la prima persona che non mi tratta come una scimmia. E mi abbraccia. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Io non lo so se con quella frase volesse dire che ero la prima persona che non lo trattava come un drogato oppure come una scimmia ammaestrata, ma da quel momento diventiamo amici. E quando torna a Roma, dopo un po' di tempo, per un concerto al Paleur, chiede di nuovo di lavorare con me. A quell'epoca, quelli di Lotta Continua spesso facevano irruzione durante i concerti al grido «La musica è nostra, non si deve pagare!». Il risultato era che ad ogni concerto erano botte da orbi. Qualche anno prima c'era stato un concerto di Santana dove avevano fatto irruzione con le Molotov e dopo questo episodio gli artisti stranieri non sono più voluti venire in Italia a suonare per anni. Però Lou Reed era venuto ed io ero contento. C'era una strana line-up al concerto. L'apertura era affidata ad Angelo Branduardi, che aveva un manager che lo piazzava ovunque, indipendentemente che ci fosse John Baez o i Deep Purple. Dopo Branduardi ci sarebbero stati i Perigeo, che erano la risposta italiana ai Weather Report. Ma già, con Branduardi ci sono i primi scontri. Prima che salgano i Perigeo, irrompe la celere, spara lacrimogeni all'interno del Palaeur. La gente comincia a soffocare, tutti scappano fuori. Io entro nel camerino di Lou Reed e lo trovo vestito con gli stivali, i pantaloni di pelle, le borchie, a torso nudo e un cappello nazista e mi ripete «I'm not fascist, I'm not fascist!». Cerco di spiegargli che non è colpa sua di tutto sto casino che sta succedendo. Lo riesco a calmare, il concerto ormai è saltato, il problema però a questo punto è capire come andarcene via da lì. Perché fuori si menavano, c'erano macchine incendiate, c'era un clima da guerriglia. Poi questo si presentava vestito da mezzo nazista e quindi era davvero una situazione potenzialmente pericolosa. Non distante dal camerino vedo un'ambulanza, mi avvicino e quando appuro che è lì per regolamento di palco, chiedo all'autista se se la sente di accompagnarci in hotel. Quindi chiamo Lou Reed, lo carico in tutta fretta, ancora vestito da nazista. Lui mi guarda e mi dice, starò male, ma proprio così no. Io gli dico di non preoccuparsi, corriamo via. Ecco, così è finita la storia di quella serata. Invece la storia della nostra amicizia è andata avanti per tanto tempo. L'ultima volta che l'ho visto è stato a Roma, poco prima che mancasse. Io ero passato a prenderlo in hotel in scooter. Lui era uscito con i suoi soliti occhiali neri. Io ho passato il casco ed è salito dietro di me. Per la paura mi ha infilato le unghie nei fianchi.